Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma. Thank you.

io mi sdraio, sono stanco, ho la salute. A tutti buonanotte. Cosa c'è? A Frenini. Mrs. Rance, fra poco, no, canta di cinese, e si vede tutto di te, ragazzo, e questi che lavora, ti compagnisco, di quei pezzi, e sono i tempi, e sono sarai vedendo, ti intende, per te ti racconti le offese degli ombri ami e capisca che vieni ti volla rara e volla musicale. Buonasera, Bini. che nell'ora qua dentro all'agenzia starebbe molto meglio. Nina mi del Torena.

cammino. E tratto sol dal fascino dell'ora, e questo giocare. Il vostro nome Porzio. Johnson, voi m'avete seccato! Sono Rancheri Fu, non mi lascio burlare. E venite a far qui. Ragazzi, uno straniero ricusa confessare perché si trova il tavolo. Chi è, chi è, chi è? Dovremo cantare, dovremo cantare. Io lo conosco, Innunzio Conto in Toro, sto garante per Giozzo. Mr. Johnson, ragazzi, buonasera, non piacere per lui. Questo cialtrone stenderà quel male da padrone. Non ho mai ballato in vita mia. Andiamo, avanti. Andiamo pure. Musica, dimmi, dov'è? Sacramento.

non so bene pur io quel che sono. Oh, avrei voluto salire a darvi l'ultimo saluto nella vostra capanna. Dovete proprio andare.

io resto. No, buona notte. Buona notte. Oh, terribile traportante fine. No, entra, no, entra. Non credete, non può uscire. Entra, no, entra, no. Tra questi brilli non sapete. No, se verrà, nasconti, nasconti. Aprite la porta, vai, vai, resta, no, resta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui dove. Oh, avete seccato con questo vostro Ramirez. Sono certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Sacramento, la scelta a voi, a corda, a pistola. Son pronto, taglia, a te. Mm. due mani sopra tre. Quante? Due. E anche tu l'adori. Siamo pari, evviva! Ora è la decisiva! Sì! Taglia! Renz, mi duole delle amare parole! Scarta! Ho sempre pensato bene di voi, Jack Renz! E sempre penserò. Io penso solamente che t'avrò fra le mie braccia. Te le vedi, ti vinco. Presto già, perché te poche cose che devo darvi. No, alla bottiglia vedo, ma gli chiedi dov'è. Presto già, vedo, vedo perché no. Partita è per la casa.

mia mai, come son morto. Un minuto si breve. Lasciatela, lasciatela, necessario troppo le dobbiamo. E tu, mio trino, poi rissigna. E giriti anche tu, non possiamo. Tu scrivi le e nel suo dritto e partiva è necessario.